Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. 10 anni fa i tecnici migliori dell'aeronautica mondiale hanno detto che l'aereo di Picard non avrebbe mai potuto, l'aereo Pulsar fotovoltaico, fare il giro del mondo, e l'ha fatto. 10 anni fa i tecnici migliori della politica italiana hanno ribadito che noi non avremmo mai fatto nulla nella politica italiana. Questi due aerei sono decollati, tutti e due. Sono gli aerei della missione impossibile. Gli aerei impossibili del Movimento 5 Stelle è decollato e adesso cambieremo la quota. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, insomma Grillo può ben dirsi soddisfatto di questa tornata amministrativa, e lo ha detto, sembrava una nostra una missione impossibile, dicevo non ce la farete, sono vi alleate con qualcuno, invece avete visto insomma i due casi veramente eclatanti, che sono quello di Roma con Virginia Raggi, che già diciamo anche prima del primo turno si dava per vincente ed è stata una conferma magari anche più ampia di quello che ci si aspettava, e poi forse la vera sorpresa è stata Chiara Appendino a Torino. Non so quanti si aspettassero che avrebbe poi scavalcato, essendo però in svantaggio al primo turno, Fassino, che pure era considerato un sindaco che aveva lavorato bene. Insomma, quindi trionfo del Movimento 5 Stelle è il dato più palese, più oggettivo di questi ballottaggi che ci sono stati ieri. E oggi quindi faremo qui a Effetto Notte un'ampia analisi di questo voto. Mi piacerebbe che anche voi vi dedicaste sinteticamente a un'analisi, nel senso che vi chiedo questa sera di rispondere attraverso, come sempre, due canali privilegiati per voi per interagire qui a Effetto Notte, che sono la pagina Facebook del programma, quindi pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Vedo che alcuni di voi vanno ancora sui miei vecchi programmi, ma è questa la pagina adesso, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure potete scrivere SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Quello che vi chiedo è che cosa, quale dato di questo voto vi ha più impressionato, vi ha più colpito, insomma, qual è la vostra riflessione, cosa direste sull'esito di questi ballottaggi, questo voto definitivo per i sindaci di 126 comuni italiani, in particolare naturalmente le città più importanti. Quindi mentre voi riflettete, vi dico appunto che parleremo ampiamente di politica e di questo day after, per l'appunto il giorno dopo. Ci saranno anche altre notizie, c'è questo fatto di cronaca molto inquietante di questa bambina trovata morta in una piscina, insomma ne parleremo dopo. Intanto le vostre riflessioni, e poi come sempre rito immancabile inizialmente qui Effetto Notte è quello di riassumervi la giornata per avere le notizie in modo esauriente e chiaro. Elezioni comunali, Renzi ammette, vittoria netta del Movimento 5 Stelle, non è un voto di protesta ma un voto che chiede cambiamento, e Grillo dichiara siamo pronti a governare il paese. Nuovi sindaci al lavoro per formare le giunte, Sala Milano dice lista pronta entro una settimana, e le sindache a 5 Stelle Raggi e Appendino in prima pagina nel Mondo. Gran Bretagna, a 3 giorni da referendum sulla Brexit, deputati riuniti per ricordare la deputata Jo Cox. Il leader laburista Corbyn parla di violenza politica e le borse scommettono sulla permanenza nell'Unione Europea. Immigrazione, l'ONU lancia l'allarme, rifugiati 65 milioni nel 2015, mai così tanti, l'appello di Mattarella, l'impegno dell'Europa sia corale. Benevento, una bimba di 10 anni è stata ritrovata morta nella piscina di un centro turistico, i carabinieri non escludono nessuna pista. Mense scolastiche, secondo le indagini dei NAS, è irregolare una su quattro, chiuse 37 in un anno, tutte al centro-sud, tranne una. Meteo, gli esperti avvertono, prepariamoci a un'estate caldissima, forse la più calda dal 1880. Partiamo quindi dal day after, quindi dal giorno dopo i ballottaggi per le elezioni comunali, con il trionfo, ne abbiamo appena parlato, del Movimento 5 Stelle e PD e Lega, che sono chiamate a una riflessione. Oggi in primo piano c'è appunto l'analisi del dopovoto, a cominciare da quella del Presidente del Consiglio Renzi. Indietro non si torna, Matteo Renzi non ci pensa nemmeno e ferma la minoranza Dem, che già si prepara alla resa dei conti nella direzione nazionale di venerdì 24 giugno. La tesi gliela offre proprio il suo avversario Beppe Grillo, e il Premier la sposa in pieno. Io non credo che sia un voto di protesta quello di ieri, è un voto di cambiamento. Non soltanto nei comuni in cui ha vinto 5 Stelle, cioè, ha vinto chi ha saputo interpretare meglio un'ansia di cambiamento, e questo è un fatto positivo secondo me. La vittoria del Movimento 5 Stelle è stata netta, bocciato chi ha giocato come la Lega sul sentimento di rabbia contro l'Unione Europea o contro l'immigrazione, ma intanto la minoranza PD chiede di innovare, non di rottamare, di cambiare rotta. Roberto Speranza. Bisogna mettere mano al partito, già da mesi sto dicendo che il doppio incarico segretario premier non sta facendo bene al PD. PD. Il PD rischia di essere più debole e non più forte. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Abbiamo detto quindi il dato più palese, il trionfo del Movimento 5 Stelle, tanta emozione per Virginia Raggi, prima donna a capo della capitale e poi festa serale grillina in un teatro romano. Dopo la vittoria elettorale delle amministrative, il Movimento 5 Stelle è pronto a spiccare il volo e a governare anche il paese. Beppe Grillo, il leader dei pentastellati, non ha dubbi. Il pieno di preferenze di domenica apre nuovi orizzonti e soprattutto non è un voto di protesta, è un voto di cambiamento. Noi adesso abbiamo bellezza, semplicità e abbiamo un'avventura straordinaria. Roma, Torino, ma anche gli altri comuni conquistati, complessivamente 19 su 20 ballottaggi, saranno il banco di prova politico del Movimento. Ma avverte Grillo, il percorso potrebbe essere disseminato di trappole e allora bellezza e semplicità sono le parole d'ordine dei primi cittadini. Vuol dire che se loro useranno le stesse armi che hanno usato fino adesso, cioè mollare la spazzatura in mezzo alla strada dicendo avete visto come hanno ridotto Roma in una settimana ai 5 Stelle, se arriveranno gli avvisi di garanzia perché i direttori e i dirigenti non firmeranno e dovrà firmare il sindaco, queste manovre si ritorceranno contro di loro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Voto che deve però questo far riflettere anche il centrodestra, in particolare la Lega. Le vittorie a Trieste, Pordenone, Novara e Savona non sono da sottovalutare, ma certo il centrodestra, che si ritrova a commentare i ballottaggi, guarda l'occasione persa di Milano, alla corsa di Parisi che si ferma allora non lontano da Sala, ma soprattutto ad un modello che in caso di vittoria poteva diventare nazionale. Così il leader della Lega, Salvini. Mi fa male essermi fermato nella mia Milano a 17.000 voti dal traguardo con 500.000 astenuti. E quello che possiamo fare, anzi quello che dobbiamo fare, è da domani ritornare a lavorare. Un bicchiere mezzo pieno quello dei ballottaggi comunque per Forza Italia. Per la prima volta dopo 2 anni, spiega Brunetta, il paese sta voltando le spalle a Renzi. Questo è un avviso di sfratto a Renzi. Ogni cosa che faccia, come dire, soffrire Renzi per me è un atto di felicità. Avviso di sfratto a Renzi perché il PD perde dappertutto. Il vecchio centrodestra, come lo abbiamo conosciuto, non esiste più, commenta intanto Alfano, alleato in tante realtà locali. Cali, Collega e Forza Italia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Non ci sono però solo Virginia Raggi e Chiara Appendino, sono 19 i sindaci pentastellati, 7 le donne elette, di poco sotto i 39 anni l'età media. Poi ci sono il ritorno di Mastella come sindaco a Benevento, il primo leghista in Toscana a Cascina, in provincia di Pisa, dove oggi è stato Salvini, Napoli, dove questa sera è festa di piazza per De Magistris, e Milano, dove Sala promette una giunta entro 7 giorni. Ma sul dopo voto ritorniamo tra poco, vi dicevo, col primo ospite. Siamo invece a un altro voto, quello molto atteso e anche temuto, del 23 giugno in Gran Bretagna, la cosiddetta Brexit, il referendum sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. La campagna elettorale è ripresa oggi, dopo la sospensione per l'uccisione la scorsa settimana della deputata Jo Cox. Oggi è stata ricordata alla Camera dei Comuni. Today we remember Jo's compassion. Mentre il clima referendario funesta il Regno Unito, i politici britannici ritrovano unità per un giorno nel nome di Jo Cox, con una speciale seduta del Parlamento per offrire un tributo alla deputata laburista uccisa giovedì scorso in Yorkshire, in presenza della sua famiglia nella tribuna di Westminster. To change our politics. La sua morte può unirci per cambiare la politica, ha detto il leader dei laburisti Jeremy Corbyn, seguito dal primo ministro David Cameron. Jo, we mourn your loss. I valori di democrazia e libertà per cui Jo lottava sono indistruttibili. Dobbiamo onorare la sua memoria unendoci contro l'odio che l'ha uccisa. Against the hatred that killed her. Mentre l'uscita dell'isola dall'Unione Europea sembrava sempre più vicina, la tragica morte della deputata ha segnato una brusca virata nell'andamento del referendum sulla Brexit di giovedì, tra accuse di strumentalizzazione e defezioni a favore della permanenza, il tutto con effetti sul rialzo della sterlina. Intanto il folle accusato del suo omicidio è apparso in videoconferenza davanti alla Corte Penale dell'Old Bailey di Londra. Morte ai traditori, aveva detto sabato ai giudici britannici che gli chiedevano la conferma di chiamarsi Thomas Mair, ma oggi si è limitato a rispondere: sì, sono io. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Parliamo adesso di immigrazione, la giornata mondiale oggi del rifugiato, e l'Unione Europea conferma la missione navale nel Mediterraneo per il contrasto del traffico di esseri umani, mentre l'ONU denuncia che i rifugiati nel mondo aumentano e superano i 60 milioni. Alla fine del 2015 erano 65 milioni e 300 mila le persone nel mondo in fuga da guerre o persecuzioni, circa la metà dei quali bambini. La Colombia è il paese con il più alto numero di sfollati interni, mentre proviene da Siria, Afghanistan e Somalia il maggior numero di rifugiati all'estero, di cui si prende cura l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite. E la maggioranza di loro non è in Europa, nonostante l'apprensione con cui il vecchio continente vive la crisi migratoria. Sono dati che l'UNHCR ha diffuso nella giornata mondiale dei rifugiati, che ha coinciso con il Consiglio dei Ministri degli Esteri Europei a Lussemburgo, in cui si è deciso di estendere di un altro anno il mandato della missione navale Sofia nel Mediterraneo. Abbiamo inserito anche l'addestramento della Guardia Costiera e della Marina Libica, ha spiegato l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini, un compito che si aggiunge a quello originario del contrasto al traffico di uomini e a quello recentemente attribuito alla missione dall'ONU per il controllo sul rispetto dell'embargo alle armi in Libia. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E adesso la strage di Orlando, torniamo a parlarne perché circa 50.000 persone hanno partecipato alla veglia ad Orlando in Florida per ricordare le 49 vittime del massacro al The Pulse, la discoteca gay. La veglia si è svolta una settimana dopo che il killer Omar Mateen ha aperto il fuoco sul popolare club gay, compiendo la peggior strage di massa con armi da fuoco degli Stati Uniti. La folla si è radunata lungo le rive del lago Eola nel centro di Orlando al motto che l'amore vince sull'odio e tenendo in mano delle candele. Poi ritorniamo invece in Italia con la cronaca, con questo fatto di cui parleremo poi dopo. Il corpo senza vita di una bimba di 10 anni è stato rinvenuto nudo in una piscina di una struttura per ricevimenti a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. La scomparsa della piccola, che è figlia di una coppia di origini rumene che vive nel piccolo centro del Sannio, era stata denunciata dal padre nella serata di ieri. Al momento la visita esterna sul corpo della bimba indica, secondo quanto si è appreso da fonti investigative, una morte per asfissia, però i carabinieri non escludono nessuna pista e quindi sarà comunque l'autopsia a stabilire con precisione le cause del decesso. Mense scolastiche, 37 strutture chiuse, 101 persone segnalate, 500.000 euro di sanzioni. Questi sono i dati del rapporto sui controlli nelle mense scolastiche, presentate oggi dai NAS, i nuclei antisofisticazione e sanità dei carabinieri. La maggior parte delle irregolarità è stata registrata nel centro-sud Italia. E siamo ormai alla maturità e anche ancora poche ore gli studenti saranno alle prese con l'esame di maturità 2016. La prima prova scritta, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi, si svolgerà infatti dopodomani, mercoledì 22 giugno, a partire come di consueto dalle ore 8:30. Il secondo scritto, diverso da indirizzo a indirizzo, è in calendario per il giorno successivo, cioè giovedì 23 giugno, sempre alla stessa ora, mentre la terza e ultima verifica scritta, il quizzone, si svolgerà invece dopo la pausa del fine settimana, lunedì 27 giugno, poi l'ultima fatica per l'esercito di maturandi, cioè gli orali. E poi iniziano anche i consigli degli esperti, che i ragazzi non devono affaticarsi troppo, devono portare il cervello ai giusti giri, devono bere molto, devono fare stretching, trovare anche degli spazi di relax. Ma tutti questi consigli e poi altre indicazioni, vi ricordo, li troverete domani, perché al posto di effetto noto io mi esento per una sera dal informarvi e fare il mio programma, perché ci sarà invece notte prima degli esami con Federico Taddia, che potrete seguire fino a mezzanotte, dalle 21 a mezzanotte, quindi una maratona per gli studenti maturandi. Poi invece, per chiudere questa prima parte di riassunto della giornata, questa notizia del meteo, attenzione, per chi non ama il caldo. Gli esperti dicono: prepariamoci a un'estate caldissima. Se finora l'anno più caldo, infatti, era stato il 2015, dopo 8 mesi consecutivi con temperatura sopra la media, il primato di anno più caldo passerà al 2016. Secondo i dati elaborati da Avvenia, quello in cui in arrivo potrebbe essere l'estate più calda dal 1880, in molte città le temperature sentite potrebbero superare i 45 gradi e in alcuni casi sfiorare i 48 gradi. Bene, dopo questo avvertimento c'è invece Dario, per il nostro Dario Ricci, che è tornato momentaneamente dalla Francia. Dario, ma presto vi tornerà. Per Euro 2016 sono partite in gioco, quali sono in campo, Dario? Eccomi Roberta, mi mancavi troppo in queste serate, ho deciso di venirti a ritrovare. Grazie, dal Dario. Vivo. Ha preso il primo volo, pensate voi che amore, questo inconfessabile. Prego Dario. Sì? Ecco, aggiorniamo piuttosto non tanto sulla nostra liaison quanto su come sta andando il girone B, quello uno dei più attesi, perché vede in campo Galles, Inghilterra, Slovacchia e Russia. Ebbene, siamo intorno al sedicesimo di gioco, sia a Tolosa, dove sono in campo Russia e Galles, che a Saint-Étienne, dove stanno giocando Slovacchia e Inghilterra. Allora, Slovacchia e Inghilterra sono ancora ferme sullo 0-0, mentre il Galles è passato in vantaggio sulla Russia per 1-0, appunto, all'undicesimo la rete di Ramsey. In virtù di questo risultato la classifica al momento sarebbe Galles a 6 punti, Inghilterra a 5, Slovacchia 4 e Russia 1, quindi verrebbe ufficializzata l'eliminazione della Russia e anche dei suoi hooligans, e questo dispiace decisamente meno. Già. Mentre Galles e Inghilterra andrebbero agli ottavi e la Slovacchia rimarrebbe comunque in corsa per qualificarsi tra le migliori 4 delle 6 terze dei 6 gironi. Ci fai sapere ulteriormente dopo, grazie Dario Ricci, ci risentiamo, ci ritroviamo visto che sei tornato, approfittiamo della tua presenza. E invece volevo approfittare anche dei vostri messaggi che stanno arrivando alla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666, dove leggerò anche qui qualche WhatsApp e qualche SMS. E la domanda che vi facevo questa sera è: qual è la vostra principale impressione dopo queste elezioni comunali? Qual è il dato che più vi colpisce, che più vi ha sorpreso, quello che più vi fa riflettere? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Roberto da Roma scrive: a Roma era più che scontato, dopo le cattive, furbe amministrazioni di destra e sinistra era prevedibile, i partiti tradizionali sono completamente distaccati dalle grandi periferie. Poi invece Cosimo da Pistoia: effetto voto, effetto sorpresa, un grosso braccio, grazie a tutto questo Effetto Notte naturalmente. Lidia dice: Appendino sorpresa per chi non conosce Torino, perché io ho detto che per molti è stata una sorpresa. Il cosiddetto sistema Torino, scrive Lidia, ha scontentato troppi, soprattutto i vecchi compagni. Poi c'è invece Luciano che scrive: mi colpisce la sicurezza che ha nel rispondere alle domande la signora Stendino. Non è Stendino, Luciano, è Appendino. C'è un sinonimo, però il suo cognome è Appendino. Dice: la calma rassicurante della signora Raggi, a me piacciono a prescindere. Dice Luciano: continuate con le vostre riflessioni, i vostri messaggi, ci sentiamo dopo la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ecco, appena aggiornati e aggiornate coloro che viaggiano, ci ritroviamo insieme con, adesso cominciamo dopo il riassunto della giornata, quindi a approfondire gli argomenti, andiamo nel cuore degli argomenti con i vari ospiti. Intanto continuo a vedere i vostri messaggi che arrivano rispetto a quelle che sono le vostre riflessioni sui dati dei ballottaggi, quindi il voto definitivo delle elezioni comunali, con sorprese, qualche riconferma, ma soprattutto, diciamo, i dati essenziali li riassumerò tra pochissimo, ma il dato più eclatante è il trionfo del Movimento 5 Stelle in genere, perché hanno vinto in 19 comuni su 20 in cui erano al ballottaggio, e poi le due donne, una la capitale Roma e l'altra che insomma praticamente ha spiazzato Fassino. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure scrivete direttamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Altri messaggi sono, per esempio Nino dice: credo che al di là delle valutazioni individuali e di appartenenza, il dato è che ci troviamo all'interno di un cambiamento dei rapporti politici e della rappresentanza. Credo che sia un momento di rottura e non siano sufficienti gli schemi abituali di analisi. Vedremo, la storia ci dirà cosa avremo vissuto, ce lo dirà tra poco anche la nostra commentatrice. E poi altri messaggi, per esempio su WhatsApp, questo è un SMS, dice: speriamo che si facciano chiamare sindaca, dice un messaggio, non si firma. Ecco, su questo devo dire, io insisto sul fatto che le professioni siano declinate al femminile quando si tratta di donne, perché bisogna riconoscere che sono anche al femminile, che ci sono delle donne che lo fanno e non devono essere chiamate al maschile, come fosse una leggera, una semplice concessione. Ed è una cosa che io ripeto da molti anni, da quando ho fatto la mia tesi di laurea proprio sul sessismo nel linguaggio. Devo dire che per anni sono stata presa in giro, osteggiata, eccetera eccetera. Adesso sempre più, oggi anche Grasso, il presidente del Senato, ha detto: auguri ai sindaci e alle sindache, anche molti adesso chiamano le sindache, sindaca, insomma, mi sembra giusto così. Sono d'accordo con la scrittrice Murgia che diceva: qualcuno suona strano, perché forse sembra più strano ancora che abbiano raggiunto questo ruolo, questi livelli. Per esempio Raggi è la prima donna che guida la capitale d'Italia, Caput Mundi, Roma. Bene, adesso vi ricordo, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, quali sono le notizie principali, e poi cominciamo ad approfondire. Renzi, voto di cambiamento, non di protesta. Il PD rifletta, dice a sinistra Dem. Intanto sono alla resa dei conti, venerdì ci sarà la direzione. Grillo dice ormai il Movimento 5 Stelle guarda al governo. La Raggi esulta, non ci hanno fermato, dice i romani sono più forti. E Chiara Pendino a Torino dice mai più una città divisa, al tavolo il no alla TAV. E poi il referendum sulla Brexit, le borse scommettono sul Remain, cioè sul fatto che rimanga la Gran Bretagna in Unione Europea. L'ONU lancia l'allarme sui rifugiati, sono 65 milioni nel 2015, mai così tanti. E poi c'è l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella che dice l'Unione Europea si impegni tutta in modo corale. E ancora i NAS nelle mense scolastiche irregolari sono una su quattro, chiuse 37 in un anno, tutte al centro-sud tranne una. L'UEFA grazie alla Croazia, solo una multa da 100.000 euro, azzurri verso l'Irlanda, poi torneremo a parlare quindi di Euro 2016 più tardi. Posso fare un pernacchio autentico a Salvini, che ogni sera da voi e fuori di voi diceva ah ma io mai questo centrodestra con Mastella non farò mai alleanza. Ma Salvini, ma chi cacchio ti voleva? Sei un mezzo leader, hai perso anche a Varese la tua luogo di, diciamo, non soltanto di residenza, non lo so, ma il tuo luogo d'origine è nata la Lega. Questo è Mastella che si prende questa soddisfazione con il pernacchio sulla Lega di Salvini, che non lo voleva insomma nella coalizione del centrodestra, e quindi invece è diventato sindaco Mastella di Benevento. Siamo il giorno dopo l'elezione dei sindaci in 126 comuni italiani, sebbene chiaramente l'attenzione è maggiormente focalizzata naturalmente sulle principali città che andavano ai ballottaggi, e più che sindaci, una volta arrivati ai risultati, a far parlare di sé con questi risultati definitivi sono, dicevamo, le sindache Virginia Raggi a Roma e Chiara Pendino a Torino. Fanno parlare di sé, rappresentano in modo lampante il Movimento 5 Stelle, soprattutto per il trionfo, ma anche perché sono due donne a capo di due metropoli, soprattutto Virginia Raggi a capo, dicevamo, della primissima donna a capo della capitale d'Italia. E poi stasera tra l'altro c'è la festa in un teatro romano, mentre Chiara Pendino è stata forse, almeno per alcuni, la maggiore sorpresa. Molti non si aspettavano che, essendo in svantaggio al primo turno, addirittura scavalcasse in questo modo Fassino, che pure sembra abbia per molti governato bene la città. Quindi, in sintesi, trionfo del Movimento 5 Stelle, che complessivamente conquista 19 comuni su 20 in cui sono andati al ballottaggio. Sconfitta pesante del PD, l'avete sentito anche riconosciuta dallo stesso Renzi. Attenuata questa sconfitta dalla vittoria di Beppe Sala a Milano, il centrodestra che non gode di buona salute, soprattutto la Lega, che tra l'altro ha perso dopo 23 anni Varese, e poi la sconfitta anche di Stefano Parisi a Milano, che insomma ricrea un po' questa guerra fredda tra Lega e Forza Italia. E poi un altro dato importante di queste elezioni sono la bassa affluenza alle urne, è stata del 50,54%, quindi praticamente ha votato metà degli aventi diritto. A questo proposito sentiamo dell'affluenza alla lettura di Salvini. Se la metà della gente non va a votare perché ne ha le palle piene di queste robe, le primarie, il candidato premier, la leadership, tanto che noi sabato organizziamo un'iniziativa non di partito, promossa dalla Lega ma aperta a tutti, senza bandiere di partito, a Parma, che si chiama Il Cantiere. E il Presidente del Consiglio Renzi, nonché segretario del PD, sintetizza così i risultati del voto amministrativo. Noi confermiamo che si tratta dunque di un voto che ha ragioni di forte valenza territoriale. Contemporaneamente però la franchezza porta a dire che c'è un elemento nazionale che è molto forte nel dato del ballottaggio, e cioè che è una vittoria nei comuni, in quasi tutti i comuni in cui i 5 Stelle stavano, dei 5 Stelle anche contro di noi. Una vittoria molto, molto netta, una vittoria indiscutibile che va chiamata con il suo nome. E la chiama infatti col suo nome. Renzi riconosce questa vittoria netta del Movimento 5 Stelle e aggiunge questa riflessione. Io non credo che sia un voto di protesta quello di ieri, è un voto di cambiamento. Nel senso che, sì, l'hanno detto anche altri, ma lo condivido, cioè è la verità, nel senso che non soltanto nei comuni in cui ha vinto 5 Stelle, cioè, ha vinto chi ha saputo interpretare meglio un'ansia di cambiamento, e questo è un fatto positivo secondo me. Ed è anche un fatto curioso, perché Renzi dice praticamente la stessa cosa che dice Grillo, cioè non è un voto di protesta ma un voto di cambiamento. Dice ha vinto chi ha saputo interpretare meglio l'ansia di cambiamento, questo Renzi. Sentiamo invece il leader del Movimento 5 Stelle, Grillo. 10 anni fa i tecnici migliori dell'aeronautica mondiale hanno detto che l'aereo di Picard non avrebbe mai potuto, l'aereo Pulsar fotovoltaico, fare il giro del mondo, e l'ha fatto. 10 anni fa i tecnici migliori della politica italiana hanno ribadito che noi non avremmo mai fatto nulla nella politica italiana. Questi due aerei sono decollati, tutti e due. Sono gli aerei della missione impossibile. Gli aerei impossibili del Movimento 5 Stelle è decollato e adesso cambieremo la quota. E a questo punto chiedo a Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Quindi, come dice Renzi, ha vinto chi ha saputo interpretare meglio l'ansia di cambiamento? Beh, sicuramente questa è un'affermazione corretta, però ne andrebbe aggiunta un'altra. Ha vinto anche chi non voleva Renzi. Questo è un voto anche contro Renzi, come dimostra proprio il caso Torino. Qui non è tanto il voto del cambiamento che ha vinto, è stato un voto anti Renzi, perché non dimentichiamo che a Torino l'Appennino partiva 11 punti sotto Fassino, sì, il sindaco uscente del PD, con il quale c'era stata una campagna elettorale, però non, ecco, niente a che vedere con i toni di quella romana, ad esempio, cioè sul modello milanese, per cui si sfidano due modelli di città. E al secondo turno praticamente tutto il centrodestra ha votato per l'Appennino. Quindi è chiaro che il voto del centrodestra è un voto anti Renzi. La candidata del Movimento 5 Stelle si è affermata riuscendo a coagulare attorno a sé un consenso, non tanto appunto credo io sulla proposta di governo della città, quanto su una proposta di antitesi rispetto al Premier. Questo, Barbara, tra l'altro leggevo un'analisi dei dati del Viminale che dicevano, a proposito dei flussi, no, dei voti, cioè verso dove si muovono i flussi di elettori di un certo schieramento o di un altro, che c'è stata una specie di scambio tra Movimento 5 Stelle e centrodestra, laddove il centrodestra ha fatto confluire, quando non aveva più al ballottaggio un proprio candidato, verso il Movimento 5 Stelle. Cattaneo, non il Viminale. Sì, no, ho letto prima l'Istituto Cattaneo e poi c'era anche un'analisi, ho visto un'agenzia d'analisi dei dati del Viminale, però sì, il primo era l'Istituto Cattaneo che diceva questo, che c'è stato questo scambio, un po' meno invece il Movimento 5 Stelle è confluito verso il centrodestra. Altrimenti Parisi avrebbe vinto, perché il Movimento 5 Stelle a Milano aveva preso il 10%, se sarebbe bastato che una metà dei 5 Stelle fossero andati a votare a sostegno del candidato del centrodestra, di Stefano Parisi, e Parisi avrebbe certamente vinto. Lo stesso possiamo dire a Bologna, dove la candidata della Lega, la Borgonzoni, ha perso, e attorno a sé sì, qualche voto l'ha preso, ma insomma non tanto da poter mettere in pericolo la conferma di Merola. Quindi diciamo, io definisco il centrodestra in questo momento, in particolare la Lega, donatore di sangue gratis, proprio nel senso che donano senza ricevere in cambio nulla, e questo probabilmente è un aspetto che dovranno tener conto. Sì. Senti Barbara, allora tu sei d'accordo evidentemente con questo ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, mettete anche almeno un nome d'arte, che dice: il dato che mi ha più sconvolto è stato la convergenza sul Movimento 5 Stelle da parte del centrodestra, altro che, come sostiene Grillo, che sono maturi per governare da soli, dice. Poi invece Carla da Torino, sul voto a Torino, dice: un compagno, tra virgolette un compagno, nel senso di sinistra, che vota Appendino a Torino solo per ostacolare Renzi è penoso, purtroppo ne ho sentiti molti, vabbè che le ideologie sono ormai saltate per aria, ma questo è puro squallore. Però possiamo dire, Barbara, che sono comunque due risultati molto interessanti, Raggi sono risultati a Roma e Appendino e a Torino. Secondo me sono un banco di prova. E in questo senso, se il risultato di Torino da un punto di vista di politica nazionale è forse più interessante, molto più interessante di quello romano, che comunque era... Si dava per scontato, insomma. Si dava per scontato perché comunque le condizioni della capitale erano quelle che erano, mafia capitale, la Giunta Marino, quindi insomma... Il degrado generale, quindi era chiaro che... un centrodestra diviso, insomma c'erano tutte le condizioni. Se Grillo non avesse vinto a Roma, veramente sarebbe stata la morte dei 5 Stelle. Adesso però, e quindi invece il dato appunto torinese è più interessante, perché è un dato che esprime l'antirentismo, il fatto che si possa coagulare l'antirentismo. Però dicevo, adesso invece sul fronte del test per il Movimento 5 Stelle. Io reputo Roma il banco di prova vero. Perché dico questo? Perché le condizioni della capitale sono disastrose, però i romani adesso si attendono, cioè c'è un'aspettativa molto alta, l'Appennino ha preso un consenso enorme, quasi il 70%, quindi si attendono, sia pure di metà dell'elettorato, però è sempre un consenso molto alto, e si attendono un cambio di passo. E un po' io faccio un riferimento qui al governo nazionale, no? Che io credo che Renzi abbia pagato, al di là delle sue uscite, abbia pagato anche il fatto di essere stato, alle europee si è visto con quel 40% il protagonista degli ultimi anni della politica, e abbia fatto immaginare un cambiamento. Questa attesa di cambiamento è stata delusa e il voto di ieri lo conferma. Adesso i grillini sono attesi alla prova, perché non potranno, come dire ma noi abbiamo trovato questo debito, ma c'erano già tutte queste buche, per rimetterle a posto ci vuole un sacco di tempo. Cioè, essere all'opposizione tutto sommato è abbastanza semplice quando si governa, e lo si è visto anche adesso con l'Appendino che dice sì, io sono contro la TAV, ma un sindaco non può fare niente, o come fu con l'inceneritore di Parma, di Pizzarotti, no? Ecco, governare è un'altra cosa, quindi adesso i 5 Stelle devono dimostrare di saper portare avanti una proposta di governo con le risorse che hanno, nel senso non solo umane ma anche economiche, che è un po' quello che sta pagando Renzi, perché io penso che al di là di tutto il Premier stia pagando il fatto che questa ripresa è all'unisono e che quindi nelle tasche degli italiani i soldi ne entrano sempre troppo pochi. Barbara, siamo un po' alle strette, adesso stiamo per chiudere, c'è adesso la minoranza PD che però soprattutto in seguito al clamoroso risultato di Torino può chiedere a Renzi un po' di rivedere un po' di cose, insomma, di rimettere mano al Partito Democratico. Speranza gli ha detto, e non solo lui, adesso devi decidere se fare il segretario del PD o il Presidente del Consiglio, uno dei due. Un flash. Allora, che nel PD ci sia un problema sulla gestione del partito è evidente. Che la minoranza del PD però possa, come dire, farsi protagonista di una riorganizzazione mi sembra assai difficile, perché laddove insomma hanno tentato di imporsi sono anche loro usciti sconfitti, e chi è andato fuori è uscito ancora più sconfitto di Renzi. Quindi di fatto c'è un problema politico che, come diceva un ascoltatore, probabilmente è un problema di diversa rappresentanza. Sì, lo diceva appunto un ascoltatore. Mentre per esempio Chiara dice stessa cosa che accadde alla Lega 20 anni fa, non vedo differenze, solo che a mio avviso, probabilmente si riferisce al trionfo del Movimento 5 Stelle, solo che a mio avviso la luna di miele finirà prima se Grillo poco fa ha messo le mani avanti che se domani c'è l'immondizia per strada a Roma, quello è il PD che cerca di sabotare i 5 Stelle. Vabbè, insomma, comunque... Vabbè, esattamente quello che dicevo, però se l'immondizia resta per strada i romani non lo perdoneranno, non gli interesserà perché se ci resta per il PD o per qualcun altro, diranno il sindaco non sa governare. Comunque insomma staremo a vedere, auguriamo il meglio di farsi valere a tutte le sindache e i sindaci che adesso sono in gioco, insomma, e per il bene naturalmente della collettività e dell'Italia. Grazie Barbara Fiammeri, a presto. Buonasera a tutti. Ciao Barbara. Direi che ci prendiamo una piccola pausa di ricreazione. Giuseppe dice che con il 20% dell'elettorato puoi governare una città come se fossi, come ne fossi il podestà, dice Giuseppe. Ci sentiamo tra poco. Bye bye Europa? Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Fino al 25 giugno, Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state seguendo Effetto Notte, lo sapete, ormai siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando, però lo sapete che è internazionale Effetto Notte, così come i vostri messaggi che a volte arrivano anche da altri paesi. Intanto continuate a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al numero per gli sms e WhatsApp che è il 349-238-6666. Abbiamo, dopo il riassunto della giornata, parlato ampiamente del dopo voto, quindi un'analisi del trionfo del Movimento 5 Stelle, delle difficoltà forti del PD, del caos anche invece nel centrodestra. E vi chiedo, per voi qual è il dato così più eclatante o quello che più vi ha colpito, insomma, di questo voto? Al pagina Facebook e al 349-238-6666. Per esempio, dice questo ascoltatore che gli italiani si stanno svegliando, questa è l'impressione principale che ha. Federica scrive: Roberta, sono felicissima, oggi non riesco a fare tanti ragionamenti, solo tanta gioia per Chiara e Virginia. Lascio domani le riflessioni, sento speranza per il futuro dei miei bimbi, spero di cuore che sia un primo passo verso il cambiamento. Poi c'è, a proposito di cambiamento, Luigi da Padova che scrive: cara Roberta, Renzi dice non protesta ma cambiamento, non ha ragione, in politica questi sono sinonimi. Aveva ragione Grillo, dice Luigi, quando tempo fa diceva per fortuna c'è il Movimento 5 Stelle perché altrimenti gli italiani voterebbero per i partiti estremisti di destra o di sinistra, come vediamo che è capitato recentemente in Francia, Regno Unito, Austria, Danimarca, Polonia, Norvegia, eccetera. Poi, fra i tanti messaggi, Alessandro dice in particolare, un particolare che pochissimi colgono, è il risultato dei 5 Stelle, sono stati ottenuti con una lista unica, se scomponiamo le coalizioni il risultato diventa ancora più pesante. Adesso però vi ricordo quali sono le notizie più importanti e passiamo, mentre voi continuate con i vostri messaggi, a un altro tema. Elezioni comunali, Renzi ammette, vittoria netta del Movimento 5 Stelle, non è un voto di protesta ma un voto che chiede cambiamento, e Grillo dichiara siamo pronti a governare il paese. Nuovi sindaci al lavoro per formare le giunte, Sala a Milano dice lista pronta entro una settimana e le sindache a 5 Stelle, Raggi e Appendino in prima pagina nel Mondo. Gran Bretagna, 3 giorni da referendum sulla Brexit, deputati riuniti per ricordare la deputata laburista uccisa, Jo Cox. Il leader laburista Corbyn dice questa è violenza politica e le borse scommettono sulla permanenza nell'Unione Europea. Immigrazione, l'ONU lancia l'allarme, rifugiati 65 milioni nel 2015, mai così tanti. Benevento, una bimba di 10 anni è stata ritrovata morta nella piscina di un centro turistico, ne parleremo tra pochissimo. E poi in meteo, gli esperti avvertono, prepariamoci a un'estate caldissima, forse la più calda dal 1880. Ci troviamo quindi adesso a parlare di una tragedia ancora tutta da chiarire, accaduta a San Salvatore Telesino, vicino Benevento, in Campania, dove il corpo nudo, senza vita, di una bambina di 10 anni è stato rinvenuto in una piscina di una struttura per ricevimenti. Domenica mattina aveva lasciato casa alle 10 e a mezzanotte poi c'è stato questo rinvenimento del suo corpo senza indumenti. I carabinieri non escludono nessuna pista, per ora è stato fatto un esame esterno del cadavere della bambina e sembra così, in prima istanza, insomma, che sia morta per asfissia. È figlia questa bambina di una coppia di coniugi di origine rumene. Ne parliamo con Franco Bononato, che è responsabile della redazione Benevento del Mattino. Buonasera Franco. Buonasera a voi, grazie. Quindi dicevamo, i carabinieri non escludono nessuna pista, potrebbe essere sia stato un incidente sia invece qualcosa di diverso. Sì, più tempo, più le ore scorrono e più si cerca un orco. La bambina è stata trovata, come tu ricordavi, completamente nuda, e i suoi abiti erano lì su una sedia ben sistemati, non c'era nessuno in un metro d'acqua, e quindi bisogna vedere chi è andato con questa ragazza lì, per quale motivo. E poi c'è chi questa struttura lì a San Salvatore Telesino, nella Valle Telesina, che sarebbe lì a poca distanza da Telese Terme, una località molto nota in Italia, hanno tagliato con una cesoia sicuramente la rete di recinzione di questo centro, di questa struttura. È certamente una bambina di 10 anni, non ha né l'attrezzatura né la forza per fare questo. Ah, perché, quindi, perché Franco, era tutto chiuso, quindi non si poteva entrare. Era tutto chiuso in questo locale che è centro San Manno, sta questa piscina, un locale, i bar, è molto frequentato, ma ieri era chiuso, c'era la festa di Sant'Anselmo. Qui si fanno le processioni, a mezzanotte c'era questa processione che si doveva fare, ma la bambina non c'era, sparita 300 metri dalla chiesa a questo, a questo centro turistico, chi l'ha portata, con chi è andata, per quale motivo, chi l'ha convinta a farsi seguire. Sono interrogativi inquietanti, come tu ben dicevi, sul corpo apparentemente medico legale. È stata disposta l'autopsia che si farà domani. Il medico legale, ad un primo esame del colpicino di questa sventurata, non ha rinvenuto, non ha visto, non già segnato dei segni della violenza. Senti, però Franco, scusami, perché la bambina sembra che avesse detto ai suoi genitori che si allontanava per andare in chiesa perché lei faceva la chierichetta, no? E doveva quindi ma questo non si sa neppure se l'ha detto effettivamente, no, perché le indagini, qui la procura di Benevento è abbastanza chiusa, abbottonata su questo, fanno trapelare pochissime notizie. Lei di sicuro doveva partecipare a questa processione del patrono Sant'Anselmo, quindi di sicuro si sa solo questo. E a scoprire il corpicino qualche ora dopo è stata una della famiglia che gestisce questo centro. Le urla si sono sentite in tutto il paese, una cosa drammatica, questo corpo che galleggiava, lei l'ha visto, l'ha notato da una finestra di questo edificio, le urla disperate, di terrore, terrorizzate di questa ragazza, di questa donna, hanno attirato poi i cittadini e quindi si è scoperto questo colpicino. Purtroppo sì, insomma, da quello che dici, Franco, da quello che emerge, non solo pare strano, una bambina di 10 anni si deve spogliare del tutto per fare un bagno in piscina, ma in più se dice che era chiuso, tutta questa rete intorno al ristorante ed era chiuso, sì. Proprio il locale, pare strano che qualcuno... Sì, anche perché da queste parti i locali non sono aperti per ovvi motivi, anche se quella è una zona tranquilla dal punto di vista della criminalità, ma c'è una microcriminalità che non conosce confini e quindi si tengono ben protette le loro cose, quindi la rete è anche abbastanza consistente. La prima cosa che stamattina è stata notata dagli inquirenti è proprio questo buco in questa rete, quindi sì, ovviamente adesso ci sta la psicosi del mostro, di questo orco che sta in circolazione. Voglio dire, in questa terra il Sannio, quello è un poco più giù verso la provincia di Caserta, in questa terra il Sannio che è sempre stata negli anni una zona abbastanza tranquilla, però negli ultimi tempi, insomma, noi la settimana scorsa qui proprio a Benevento città, nel rione Ferrovie, dove sta la stazione ferroviaria, è stata uccisa una prostituta, Esther, una nigeriana, a colpi di pistola, 6-7 colpi di pistola, e ancora il movente e l'assassino non si riconoscono, quindi diciamo anche questa zona sta cambiando, purtroppo, è un qualcosa che sta mutando e questo preoccupa tutti. Chiaramente la popolazione. Franco Bononato, io intanto ti ringrazio, responsabile, lo ricordo, della redazione di Benevento del Mattino, e semmai ci aggiorniamo nei prossimi giorni se pare che appunto le direzioni vadano verso la ricerca di questo orco. Grazie Franco, buon lavoro intanto. A voi, a tutti, grazie. Ciao. C'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, sempre Roberta Giordano con voi. A proposito del dato definitivo dei ballottaggi, le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Cristiano dice: il crollo di un PD personalista e saccente è la prova che una sinistra finta è qualcosa di nauseabondo e intollerabile. A Milano ha vinto un uomo la cui anima e i suoi precedenti politici odorano di destra. Chiara: dalle ceneri romane era troppo scontata la vittoria di Raggi, mentre Torino è stata davvero un'autentica vittoria grilline. Poi aggiunge il resto: e Mastella raffinatissimo su di Gattopardesco, eccetera eccetera. Adesso tra pochissimo c'è l'appuntamento con l'Europa, però vi ricordo ovviamente, per chi non ha ascoltato dall'inizio, le notizie principali, che sono: Renzi che dice questo è stato un voto non di protesta ma di cambiamento, il PD intanto rifletta, dice la sinistra, la minoranza Dem, alla resa dei conti venerdì ci sarà la direzione, poi Grillo dichiara: ora il Movimento 5 Stelle è pronto per il governo. Raggi esulta: a Roma non ci hanno fermato, i romani sono più forti. Appendino, che era Appendino a Torino, mai più città divisa, quindi si preparano a governare. Referendum sulla Brexit, le borse scommettono sulla permanenza della Gran Bretagna in Unione Europea. Intanto oggi Cameron ha ricordato la deputata laburista uccisa Jo Cox. L'ONU lancia l'allarme per i rifugiati, 65 milioni nel 2015, mai così tanti, e Mattarella lancia l'appello, l'Unione Europea si impegni tutta in modo corale. E poi i NAS nelle mense scolastiche, irregolare una su quattro, chiuse in 37 in un anno, tutte al centro-sud, tranne una. YouZone, incontro con gli europarlamentari. Nome? Elena Vettaelli. Cognome? Schlein. Età? 31 appena fatti. Nata? Lugano, Svizzera. Eletta in? Nord-Est, Bologna. Con quanti voti? Mi sembra 54.800. Partito politico? Adesso impossibile, possibile. Gruppo politico? SND. Segni particolari? Ah, sono un po' nerd. Quante lingue parla? Più o meno 4. Competenze europee in 10 parole? Immigrazione, lotta ad evasione ed elusione fiscale, cooperazione allo sviluppo e copresidente dell'intergruppo antimafia e corruzione. Benvenuta nella YouZone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Quotazione Brexit in rialzo, boom di giovani iscritti al referendum per votare. I sondaggi dicono che credono ancora nell'Unione Europea. Londra in mano loro? Ma speriamo, speriamo. Noi siamo la prima generazione che è nata e cresciuta europea, che non può permettersi di dare per scontati i benefici che questo ci ha portato, viaggiare senza passaporti per un intero continente, essere aiutati a studiare, insomma, ci sentiamo europei. Dobbiamo però essere consapevoli di ciò che manca all'Europa e che serve maggiore integrazione, non un passo indietro di fronte alle sfide globali. L'Europa e l'evasione fiscale. Ogni paese fa storia a sé. Possibile uniformare i sistemi di tassazione, controllo e sanzione? Ecco, noi perdiamo 1.000 miliardi di euro l'anno in evasione e dell'elusione. È un'assurdità, ci pagheremo 3 piani Juncker, per intenderci. I paradisi fiscali ce li abbiamo in Europa, quindi sono dei paradossi. L'hanno fatto vedere LuxLeaks, l'hanno fatto vedere i Panama Papers. C'è un atteggiamento schizofrenico dei governi che si devono convincere a davvero lottare contro questo fenomeno con trasparenza, come chiede il Parlamento, sui beneficiari finali delle aziende, rivedendo le regole globali con i paesi in via di sviluppo che sono intaccati più di noi dalla nostra stessa evasione e dell'elusione fiscale, scambio automatico di informazioni e country by country reporting in tutti i paesi, cioè ci devono dire quante tasse pagano, quanti profitti fanno le compagnie in tutti i paesi in cui sono operative. Semplice operazione di trasparenza, costo zero e tanto guadagno per ovviamente redistribuire. L'Europa e i migranti. 250.000 euro di multa migrante per chi rifiuta le quote di ricollocamento, lo dice la Commissione. Spot o proposta realizzabile? Ecco, io sarò relatrice per il mio gruppo della riforma di Dublino. Non è quella ambiziosa che noi chiedevamo, ci aspettavamo. Oggi 6 stati membri su 28 fanno da soli l'80% delle richieste d'asilo. Non è la solidarietà e l'equa ripartizione di responsabilità che già ci chiedono i trattati europei. Quindi spingeremo per arrivare più vicini a quello che il Parlamento già chiedeva. Superare il criterio del primo paese d'accesso, un meccanismo di distribuzione di responsabilità a livello europeo, automatico e concreto, e vie legali ovviamente per l'accesso a chi chiede protezione internazionale. Una centralizzazione europea. Noi spingeremo in questa direzione perché il resto non ci sembra vera solidarietà. Il suo peggior nemico? L'indifferenza, direi. Il suo miglior amico? I trolli. Si ricandida alle prossime europee? Ma non lo so, ero titubante già la prima, vedremo. Un sogno nel cassetto? Io vorrei farla regista. Tra 10 anni l'Europa sarà? Ma una federazione vera, spero. YouZone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Sorpresa non più di tanto, era nell'aria. Un grande in bocca al lupo a lei e al suo staff. A Roma, ma non solo, abbiamo bisogno di una ventata d'ottimismo, di un cambio radicale. Sicuramente, fra virgolette, le macerie che sono rimaste alle spalle sono pesanti da smaltire. Roma ha bisogno di una risalita rapida, perché ha vissuto momenti di difficoltà. Speriamo bene, insomma, in bocca al lupo. Non solo gli osservatori, politici, commentatori, giornalisti commentano il dopovoto, persino i calciatori con De Rossi, ne è vero Dario Ricci? Eh sì, ma poi commentava De Rossi la vittoria di Raggi a Roma, no? Esattamente, insomma, da romano, romanista ha tutto il diritto, e tra l'altro è uno dei calciatori davanti al microfono sicuramente più interessanti e brillanti, quindi è che non è poca cosa. No, infatti non ha speso certo parole banali nel commentare, nel fotografare, anche perché secondo lui la Raggi è riuscita a conquistare il Campidoglio, insomma. È sembrata un'analisi che può starci tra le tante che anche abbiamo sentito e letto in queste ore. Anche Pallotta, presidente della Roma, ha fatto gli auguri alla Raggi. Adesso, al di fuori quindi dei politici e del voto, invece come stanno andando le partite intanto? Beh, allora abbiamo sempre nel gruppo B, abbiamo una russa che è praticamente fuori, perché alla fine del primo tempo il Galles è in vantaggio per 2-0 con le reti di Ramsey all'undicesimo e di Taylor al ventesimo, mentre è 0-0 tra Inghilterra e Slovacchia, malgrado la presenza del principe William sulle tribune dello stadio di Saint-Étienne a incoraggiare gli inglesi. In virtù di questi risultati il Galles concluderebbe al primo posto il girone B, l'Inghilterra sarebbe seconda e quindi le due britanniche sarebbero direttamente ammesse agli ottavi, mentre al terzo posto ci sarebbe la Slovacchia con ben 4 punti e quindi con buone possibilità di essere ripescata tra le migliori terze. Però insomma, Roberta, fa un po' di sensazione questa Russia così low profile, considerando tutti i problemi che hanno creato gli hooligans che abbiamo raccontato, ma anche il fatto che la Russia fra 2 anni ospiterà i mondiali, e con una squadra così dimessa che figura ci fa lo zar Putin? Che figura, speriamo che nel frattempo, almeno per loro, ecco, si allenino un po' di più. Anche perché poi spesso quando la squadra è così debole la tentazione di qualcuno è quella di aiutarla e quindi... Stai parlando di doping, ma non l'ha detto Dario Ricci. Ciao caro Dario, ci sentiamo presto, e noi invece per gli aggiornamenti alle 22.